La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. L'ultima volta alla guardiana del faro abbiamo fatto sentire l'intervista di Terry De Nicolò, la escort di Bari che ha spiegato come chi è bello e giovane deve prostituirsi e le racchie devono stare a casa. Chi sa stare al mondo fa questo, gli altri sono degli sfigati. È ovvio che Terry è il sintomo, non è il male. Terry è il frutto di un esempio che viene dall'alto e di un tentativo in parte riuscito, purtroppo, di ridurre tutto a merce e le donne specialmente. Gad Lerner è tra i pochi che abbia combattuto una grande battaglia contro questo piano di degradare la donna e con essa tutti, facendone un'immagine pornografica e un oggetto di scambio. Ora, in quale situazione parla Terry? Terry parla in una organizzazione sociale in cui le donne vengono pagate al lavoro meno degli uomini, in cui spesso devi fare questa scelta atroce tra figlio e lavoro, in cui se sei incinta ti licenziano, in cui la situazione degli asili di infanzia è penosa e la miseria degli stipendi spesso non consente di pagarti un aiuto. Terry parla in una società in cui i giovani sono stati buttati dalla finestra, maschio o femmine, qui non si fa distinzioni. Prima li affamano, li riducono al di sotto di ogni dignità, con l'aiuto di una rovinosa riforma scolastica, e poi beffardamente si fa girare quest'idea che vendersi è l'unica soluzione. Per cui questo produce un mondo in cui le studentesse si vendono come sistema, i padri e le madri offrono le figlie ai vecchi ricchi, a una professoressa e gli studenti a fine anno come dono hanno regalato uno gigolò per una sera. Terry parla in un'Italia in cui un importante ministro, parlando al telefono, intercettazione, con un famoso faccendiere dice: non abbiamo la maggioranza, ma ci compriamo 4-5 senatori come se si trattasse di una partita di zucchine. E lo so bene che in fondo lei è l'anello debole di questa catena di schiavitù, perché è quella che fa suo ciò che gli intellettuali di regime sostengono. In sostanza, questa tristissima idea che solo i soldi contano, ovvero qualcosa di alienato, qualcosa di fuori di noi. Oh, hanno scritto in molti, ascoltatori di Radio 24, li ringraziamo. Mi scuso se cito solo alcune frasi, perché le lettere sono tante, ma la più interessante, secondo me, è quella scritta da una ragazza che si prostituisce. Cara Barbara, secondo me hai dato troppa importanza a Terry De Nicolò. Anch'io mi prostituisco, ma non mi considero una sua collega. Terry non può avere la presunzione di rappresentarci tutte. Non mi riconosco nelle sue dichiarazioni, perché ci sono tanti modi di fare questo mestiere. Lei fa parte di una squadra di potere. Io sono gelosa della mia indipendenza. Mi prostituisco, ma non per questo ho i suoi gusti grossolani. Io porto di rado abiti firmati. La firma sono io. Il mio corpo, la mia personalità, il mio modo di portarli. Mi prostituisco, ma non per questo ho mai camminato sui cadaveri. Devono fare un brutto effetto sotto i piedi. Scricchiolano. E non ho mai venduto mia madre, come predica lei. Anzi, le voglio bene. Mi prostituisco, ma per me gli affetti sono la cosa più importante. Prostituirsi non vuol dire essere né spietate né carogne. Non sempre. Anzi, ti dirò una cosa, che avere confidenza coi corpi mi ha resa più pietosa, più umana. Sono un po' infermiera, un po' madre, un po' maga del sesso. Vendere il corpo è un conto. Vendersi totalmente come lei, al punto da diventare il megafono dei suoi padroni, mi ucciderebbe. Mi prostituisco per disporre di me, non per essere manovrata da altri. Se mi piace? A volte sì, a volte no. C'è una tariffa, il rapporto è chiaro, ma non mi metto alla finestra a gridare «Ehi donne, datela se siete belle le racchie a casa!» Mi sentirei ridicola. Ho fatto una scelta, me ne prendo i vantaggi e gli svantaggi. Se era il mio ideale? No. Però sono bravina. Se riesco a mantenere, oltre me e mia madre, i miei fratelli, che studiano due in America, uno in Spagna, a casa mi credono un manager della moda. E anch'io studio. Mi sono iscritta a lettere, sono appassionata della letteratura francese del 6 e del 700. Mi sono adeguata a un paese che non rispetta né le donne né il lavoro. Ma sono io che scelgo. Non ho mai fatto parte di una corte, né ho mai avuto un pappone. Non riconosco nessun imperatore come fa Terry. Sono una professionista seria. Posso decidere di non vederli più se non mi va. Non approfitto dei miei rapporti per avere favori di altro genere. E sono anch'io turbata che la mia sorte di cittadina italiana dipenda da ministre che sono lì per meriti di letto. Un'amica ha cercato di trascinarmi in un giro di potere. Sono andato due volte. Poi non più. Non voglio diventare una pedina. Se volevo obbedire, allora mi sposavo. E non voglio convertire nessuno, né mi credo superiore perché sono bella. Non guardo con disprezzo le altre donne. L'arroganza non fa parte del mestiere. Non sempre. Cara Terry, parla per te, per favore. Leggerò qualche frase delle lettere che sono arrivate. Questo è un SMS personale, mandato da una mia amica, Natasha Stepanova, che scrive 2000 euro al mese? Magari, chi li ha mai visti? Perché Terry Di Nicolò diceva appunto le racchie a casa, chi non rischia, che si accontenti di guadagnare 2000 euro al mese, ma come sappiamo saremmo ricchi se uno stipendio standard fosse di 2000 euro, sappiamo che invece è molto più basso. E lo aveva scritto anche Concita De Gregorio nell'articolo di cui abbiamo letto una parte. Notava che appunto la signorina De Nicolò è anche molto poco informata dei fatti italiani. Questo è interessante. Volevo soffermarmi su un passo della apostola evangelica Terry. Mi ha molto colpito quando parla della bellezza che deve essere svenduta sul campo e di quelle povere racchie che farebbero bene a non uscire di casa. Ma chi sono le racchie? Forse tutte quelle donne dall'aspetto normale, semplice, che hanno un po' di ciccia sparsa per il corpo e magari il naso aguzzino, o che non presentano curve siliconate e labbra simili a canotti. Io ho 36 anni, sono un uomo e ho sempre perso la testa per le donne non appariscenti, dall'aspetto carino, normale e abbastanza burrose, che mostrassero umorismo, semplicità e un'intelligenza così intrigante che andava ben oltre l'apparenza e che mettessero in evidenza quelle doti che fanno innamorare. Solo oggi ho capito di essere uno sfigato, perché mi piacciono e mi innamoro delle racchie. Alessandro da Latina, la città del grande Pennacchi. Ringrazio anche Albertina, con questo delizioso nome prustiano, che ci dà ragione, quindi non leggiamo la lettera. Poi, fare o non fare marchette? Io ho sempre evitato. Questa invece è Grazia Seregni, che racconta un lungo e disperante iter. Lei che aveva i numeri, che sapeva lavorare, eccetera, sempre scalzata per dei raccomandati. E quindi è riuscita comunque a farcela, ne è molto contenta, è riuscita appunto a far crescere un figlio da sola, è diventata anche giornalista. Segnala il link del suo giornale www.donnemammenonnedonne.it. Grazie, grazie. La guardiana del faro. Stavo leggendo le lettere che ci hanno scritto in seguito all'argomento che avevamo affrontato la scorsa settimana sulla intervista dell'escort barese Terry De Nicolò, che appunto dice che bisogna vendersi altrimenti siete disgraziati. Ringrazio Marina Tarallo, perché intanto è una ascoltatrice che ci siamo guadagnati nel tempo, che all'inizio non ne voleva sapere, perché il marito la voleva costringere e lei ha cominciato a sentire la trasmissione della Guardiana del Faro, ma si distraeva. Poi da un po' invece non si distrae più. E parlava appunto a proposito di questa della Lexio Magistralis di Terry De Nicolò, dice: oggi è strano sentire persone che affermano di avere dei principi e dei valori senza vergognarsene. Parla di me, perché adesso bisogna vergognarsi appunto dei principi. Io, donna di sinistra da sempre, mi sono sempre sentita accusare di essere bigotta. Eh già, perché se uno non vende le figlie è una bigotta. Poi invece abbiamo Giampiero Ghiglione, lo ringrazio perché dice che ci ascolta la mattina facendo colazione. A me l'idea di essere mischiata all'odore del caffè lo trovo inebriante, e dice che da femminista convinto è deluso dall'emancipazione delle donne italiane. Penso che all'italiano in generale piace saltare sul carro del vincitore, e molte donne stanno facendo lo stesso, perché certo anche noi siamo uomini. Qualche anno fa, nella mia retorica gioventù, avevo scritto le donne salteranno giù dal carro funebre della cultura ufficiale. Invece molte ci sono salite sopra a tutta birra, ma molte altre invece no. Sono un uomo del profondo sud, ho 58 anni e non ho saggi teoremi, insomma prevede come il signor De Germont nella Traviata prevede un futuro terribile per Terry, ma io non glielo auguro. Comunque grazie, non ce la firma. Ecco, qui c'è invece un signore, è Fabio Vinciguerra, che è un viticoltore ed è un elettore di destra. Un elettore di destra disperato. Sono da sempre un elettore di destra, Ma qui non si tratta più di tifare per questi o quegli altri. Qui si tratta di salvare il poco salvabile e ricominciare da capo. C'è una società civile, non è né rossa né nera, che non ne può davvero più. Ripeto, sono un uomo di destra, ma la destra sana, non quella dei bordelli o del billionaire. E poi invece ci sono le lettere. Ne ho scelte due, tra quelle che invece si sono scandalizzate perché non siamo per la prostituzione. E una è Cati. Cati dice, è una lettera molto breve, bello questo Eros, si riferisce all'intervista a Eros che abbiamo fatto, bello questo Eros scritto da Papa Benedetto XVI. Brava Gordiana, non ti riconosco più. Cati. Ma veramente, io credo che per riconoscere qualcuno prima bisogna conoscerlo. Io ho l'impressione che tu non mi conosca affatto. Intanto ti consiglio un libricino mio che si chiama Vangelo secondo Maria per chiarirti. Poi ti devo deludere, ma Papa Benedetto XVI non collabora ai testi di questa trasmissione. E poi non mi risulta che abbia mai fatto l'elogio dell'erotismo. L'ho sempre sentito parlare in modo repressivo, molto cieco del sesso, a minacciare gli omosessuali, molto direttamente. Mentre poi, quando si tratta di criticare invece le persone importanti, il comportamento di potenti, i politici, diciamo pure il capo del governo, sono molto ma molto più fumosi. Invece quando si tratta di castigare i fedeli non risparmiano. Ma soprattutto vorrei leggere una parte, almeno perché molto lunga, della lettera di Silvia Aonso di Savona, la quale mi scrive: una ragazza dell'arme dei potenti ha sentito il bisogno di raccontarsi su video. Ci ha spiegato il proprio modo di esistere come donna pensante lì dentro. Possiamo condividerlo o no, ma lei ci ha detto tutto di sé. Finalmente una donna che parla ed è sincera. Stimiamola. Se non la condividiamo, discutiamo, ma senza sopraffarla con le nostre teorie manipolatrici, tipiche delle femmine risentite. Senti, cara, risentita sarai te. Questa, perché non vi siete più abituati, si chiama passione, è un'altra cosa, eh? E si chiama forza delle idee. Guarda che Terry non ha detto: ah, io faccio questo a voi che ve ne frega. No, no, è lei che ha fatto la predica a noi. E anche una predica molto aggressiva. Ha legiferato. Lei ha assorbito tutto l'insegnamento dei suoi clienti e dei suoi macro sulla esaltazione della prostituzione come unica soluzione per le donne. Come dicevo prima ci affamano e poi ci dicono: vabbè, c'è sempre sto lavoretto per voi. Ci ha fatto una lezione, anzi ha enunciato un dogma: chi non fa come me è un poveraccio, è uno sfigato. Ora, con una certa enfasi retorica, tu dici: nessuno fermi la principessa che va spontaneamente dal drago, potrebbe rivoltarsi contro. Ma scusi Silvia, cos'è? Mi minaccia? Io posso credere, non dubito che la signorina in questione abbia delle amicizie molto potenti e pericolose, ma lei cos'è? Vuole suggerirmi la prudenza, altrimenti mi picchiano, mi licenziano da Radio 24? Non lo so, mi dica. Vuol dire che queste signore sono così dominanti che si farebbe meglio non toccarle? È una frase molto ambigua, ci rifletta. E lei continua, appunto, dice: ma io sono fatta così. Ecco. Tu, scusa Silvia, ma sei proprio vittima della incultura contemporanea. Hanno fatto passare la vanteria, la sfrontatezza. Io rubo. Beh sì, e allora? Io mi prostituisco ad un clan di potere. Beh sì, e allora? Guarda, tu sostieni che tutte le opinioni vanno rispettate. Ecco, quando ti parlo dell'incultura moderna, questa è una bugia pazzesca, ma non è vero. Io non sono affatto d'accordo. Se tu sostieni, come ha sostenuto Terry De Nicolò, che bisogna camminare sui cadaveri e vendere la madre, io non la rispetto affatto questa idea. Una che divide il mondo tra racchie che hanno diritto di vita e racchie che non ce l'hanno. Allora, guarda, ultimamente pure ho avuto la sventura di parlare con un giovane neonazista, violentemente anti-ebraico, anti-musulmano, anti-africano, e io non è che ho rispettato le sue idee. Io le sue idee le disprezzo, ci sputo sulle sue idee e le combatto con tutta la mia forza. Oh, poi viene il pezzo bello. E voi siete degli ipocriti. Ah, dei moralisti. Allora, ipocrita è quello che dice una cosa e fa il contrario, e che accusa gli altri di colpe che commette lui di nascosto. Non è questo il caso, guarda, io sono sempre stata una grande sbruffona e ho sempre pensato di potercela fare con le mie forze. Le marchette le fanno i somari, quelli che non hanno talento. Sai, a chi ha talento non conviene prostituirsi, perché si sciupa come un cavallo di razza che corra su un terreno accidentato. Guarda che si fa prestissimo a diventare un brocco. E così poco armonioso è questo mondo che appunto la parola moralista è diventata sinonimo di ipocrisia. Ma guarda che avere una morale, cercare di seguirla, vuol dire avere una bussola. E quando chi crede in questo invita gli altri a comportarsi secondo bellezza, secondo il bel vivere, che vorrebbe dire il vivere libero, lo dice soprattutto a se stesso. Perché chi insegue una morale non dico segue, che non è nient'altro che il corretto uso delle energie, la prima moralità sua è di sapere di non essere perfetto e di sapere che questa cosa se la deve dire a sé ogni momento, però sa qual è la bellezza alla quale tende. E poi mi scrivi: Terry è una ragazza bella e perfettamente adeguata. Beh, adeguarsi è la parola chiave della schiavitù. Adeguarsi è proprio la parola di chi si vende. Aveva ragione Eros, con la voce di Giuseppe Sansonna, quando ha detto: di cosa hanno paura gli italiani? Delle tasse, del terremoto? E lui ha risposto: no, di sembrare moralisti. Oh, poi scusa, finisci dicendo: ti voglio bene. No, senti, a me non sembra il caso. Perché devi voler bene a una cretina come me che non capisce la grandezza di Terry De Nicolò? Io credo che ti convenga volere bene a lei e penso che uno scambio intellettuale tra di voi sarebbe sicuramente molto più interessante. Se tu sei una bella donna e ti vuoi vendere, tu lo devi poter fare, perché anche la bellezza, anzi soprattutto, come dice Sgarbi, la bellezza ha un valore. Se tu seracchi e fai schifo, te ne devi stare a casa, perché la bellezza è un valore che non tutti hanno e viene pagato. Allora, chi questo non lo capisce? Ah, il ruolo della donna viene minimizzato. E vabbè, allora stai a casa, ma non mi rompere i co***i. Abbiamo ascoltato l'Alexio Magistralis di Terry De Nicolò, che appartiene proprio a questo partito dell'amore, dell'amore a pagamento. Ecco, io molto semplicemente penso che vendersi è male. Vendersi è rinunciare. Vendersi è morire a sé. E vede, Terry, quella cosa che lei chiamerebbe adrenalina e io forza vitale, emozione, slancio, ma mi adatterò al suo linguaggio. Ma lo sa quanta adrenalina produce rischiare tutto per un'idea? Lo sa com'è esaltante un atto di coraggio? Lo sa quanti geni e grandi artisti sono andati in giro con le scarpe rotte e lo stomaco vuoto ed erano dei re sulla terra e creavano mondi come fa il Dio e sono vissuti in mezzo al fasto sterminato della bellezza che loro stessi avevano creato e il loro nome resta. Per lei e per il suo imperatore, come lo chiama, Dante, Shakespeare, Leopardi, Caravaggio sarebbero stati dei perdenti. La guardiana del faro. Volendo fare una cosa a più voci, adesso vorrei intervistare Maria Latella, direttrice del settimanale A, che ha preso col suo giornale da ormai da molto tempo una iniziativa, per quanto io sappia, unica nel giornalismo italiano, ovvero una aperta campagna contro i senza talento. Ed è una cosa che non soltanto è stato un proclama, ma nei fatti, poi ci dirà lei come, nessun altro l'ha raccolta, però io trovo molto interessante che un giornale eviti, nelle copertine, nelle interviste, eccetera, i raccomandati e le raccomandate. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto la giornalista Maria Latella è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno, ben trovati. Come dicevi tu, da qualche anno ha preso una posizione molto chiara e trasparente. In copertina non mettiamo anche magari famosissime showgirl che più che al loro talento devono la fama a spinte, raccomandazioni, questioni di letto. E questioni politiche. Sì, per questioni politiche ovviamente, perché la politica in questo paese ha più o meno militarizzato tutto, incluso lo spettacolo, il che è un po' paradossale. Noi abbiamo preso questa decisione all'inizio perché ci eravamo stufati di vedere tutti questi finti fidanzamenti, queste finte foto paparazzate di attricette o presunte attricette, showgirl, che non avevano combinato niente nella vita tranne diventare d'improvviso famose. È ovvio che il sistema, per puntellarle in questa fama posticcia, aveva bisogno di tenerle in piedi settimana dopo settimana, e siccome non c'erano notizie su di loro, salvo cose che poi abbiamo appreso successivamente, anni dopo, leggendo appunto le telefonate che le vedevano protagoniste con il potere politico, siccome non c'erano notizie, noi ci ritrovavamo settimana dopo settimana con un fidanzato sempre nuovo e sempre più improbabili storie d'amore. Con tutta evidenza era una presa per i fondelli dei lettori, ai quali venivano ammaniti questi personaggi senza arte né parte, senza talento, senza niente, solo perché erano parte di un circuito, diciamo, di potere. Partendo da lì il discorso di un circuito equestre, sì. Partendo da lì il discorso si è allargato, perché in realtà poi è anche troppo facile prendersela con la subrettina nel momento, è come rubare una caramella a un ragazzino. Il punto è che questo sistema ha infiltrato l'intera vita italiana, convincendo tra l'altro, e questo è il peggio, moltissimi ventenni, trentenni, che non serve a fare fatica, non, men che meno studiare o comunque coltivare un talento se uno ce l'ha, e se uno non c'ha un talento comunque impegnarsi in qualche modo. Serve semplicemente cercare di ritoccarsi gli zigomi, farsi due tette nuove e cercare di andare in TV, che comunque svolti e fai poi, soldi facili. Ma poi Maria, io penso che tu, senza fatica, diciamo, ma andare a letto con ste schifosi, ma non deve essere mica facile, eh? È un lavoraccio, voglio dire, non infatti, è una roba. Giustamente, come hanno rivelato alcune intercettazioni, c'era chi diceva: prima di farlo voglio vedere cammello. Certo, infatti. Cioè, infatti all'impegno, a una fatica tale, si richiede prima il cammello in visione. Ma ammetterai, Barbara, che è una visione davvero paradossale, no? Di un paese che con questi espedienti mezzucci non condanna soltanto la qualità degli spettacoli televisivi, ma condanna in generale un paese, perché lo stesso principio che vale per andare a condurre il Festival di Sanremo, semmai, vale poi per dirigere una clinica, per finire in Parlamento, per, certo, dirigere una clinica, per fare, che ne so, la giornalista televisiva o non. Ragazzi, è un sistema che va, come dire, considerato nella sua opacità su tutto. Allora, armati di pazienza, noi settimana dopo settimana teniamo in piedi questo, perché dai senza talento dello spettacolo qui si arriva ai senza merito, che in un paese a disoccupazione giovanile altissima comunque continua ad assicurare delle piccole rendite di posizione solo a chi? A chi c'ha il padre notaio, che così si diventa notai, a chi c'ha il padre farmacista, così si diventa farmacisti. Attenzione, qui nessuno dice che se uno c'ha il talento per fare il notaio e c'ha un padre notaio non possa farlo. Il discorso è un altro. Il discorso è la ricostruzione delle carte. Bisognerebbe dare qualche possibilità anche a chi il padre notaio non ce l'ha. Cioè, io ho fatto la giornalista, mio padre faceva l'insegnante. Credo che molti figli di giornalisti abbiano, come dire, respirato in famiglia. Ma certo, perché un conto è la bottega e un conto è la mafia, voglio dire. Certo. Infatti, su Adi questa settimana, noi abbiamo appaltato lo spazio di solito dato a un politico. Abbiamo pensato che fosse molto più interessante far parlare una ventenne che si chiama Veronica, che si è laureata in lingue, che, come racconta, con i soldi dei nonni operai e del padre operaio è riuscita anche a fare un lungo stage a Birmingham, perché dice: imparo bene l'inglese e quello mi aiuta a trovare un lavoro. Ma che fa la cameriera in un piccolo ristorante di Milano, mestiere degnissimo. E poi tutti dicono che negli Stati Uniti da sempre gli studenti fanno i camerieri. Ma anche, sì, anche ai miei tempi, Maria, noi scappavamo di casa e facevamo qualsiasi mestiere. Sì, ma poi, in vista di qualcosa, dopo trovavi qualche altra cosa, no? Se, certo, se non ti andava di fare la cameriera tutta la vita, che è un mestiere dignitosissimo e talvolta molto meglio remunerato di tanti altri mestieri cosiddetti intellettuali, però se invece ci tenevi tanto a fare un'altra cosa, avevi delle possibilità. Sì. Questo non c'è. Allora, donchisciottescamente, noi continuiamo a parlare di questo, di merito, di talento, di raccomandazioni. Continueremo settimana dopo settimana e cercheremo anche a questo punto di andare a scocciare non soltanto le persone di spettacolo, ma anche le aziende. Oh, su questo argomento, appunto, Marchette, vogliamo intervistare quello che più se ne intende, ed è Piero Chiambretti, che è sicuramente uno dei talenti più vivi, più originali dello spettacolo. A me è molto simpatico perché è un Pinocchio che è sempre sfuggito ai gendarmi, non si è mai fatto acchiappare, non è mai diventato, come nel finale di Pinocchio, un ragazzo per bene che guarda con compassione le spoglie del burattino, e ha sempre continuato a correre con le sue gambette di legno liberamente, e ha intitolato a un certo punto, visto l'andazzo e visto che tutta la Rai, Mediaset, era tutto un cumulo di Marchette, lui ha fatto direttamente una trasmissione che si intitolava Marchette col K. Però peraltro chiamando a lavorare con lui dei veri talenti, ballerini, cantanti, un vero capocomico, al quale debbo una delle esperienze più belle della mia vita, mi fece fare l'angelo. Mandava il cielo sopra Berlino di Wim Wenders e mi faceva fare l'angelo, poi con dei velatini che sembrava che avevo 11 anni. La capitaneria di porto può passarmi Piero Chiambretti? Qui capitaneria di porto. Come richiesto, lo showman Piero Chiambretti è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Piero è là? È il faro che parla? Sì. Si può dare la sua posizione? Ho una bussola in mano, ma non riesco a capire se lei è a nord o a sud. Ma lei è nei pressi? Non so se sono nei pressi, per quello le chiedevo la sua longitudine. Io sono in cima al mondo una volta conosciuto. Sono a Capo Finisterre. Beata lei, vorrei raggiungerla ma non posso. Sono legato ancora dal consumismo televisivo. Senta, ci racconta com'è che lei a un certo punto ha fatto questa trasmissione Marchette? Beh, molto semplice. Guardando la televisione ho capito che la televisione forse nasceva per comunicare, poi è diventata invece un magazzino che promuove soltanto articoli, ospiti, dischi, libri e tutte le varie possibilità del genere umano. Soltanto che nessuno lo dice, perché la frase del conduttore tipo è sempre stata: abbiamo qui un famoso ospite, ecco, ci presenti il suo libro, ci presenti il suo disco, ci presenti il suo vino. Ho visto gente che presentava anche olio, vino, aceto. Solo che hanno, come dire, hanno il pudore, o non ce l'hanno, non lo so, dipende dai punti di vista, di far passare tutto come delle grandi ospitate, delle eccezionali esclusive. Invece sono delle vere e pure marchette. Quindi io ho detto, ma perché nascondersi dietro al marketing? Facciamo un programma di marchette, tanto tutti fanno marchette, dal programma più importante a quello peggiore che la televisione ricordi, sono solo promozioni di qualcosa. L'importante è che vengano fatte con gusto, vengano fatte con autorevolezza e con distacco. E così è stato il programma Marchette con la K. Che appunto poi era un filo di spettacolo dove in verità si promuoveva il talento. Sì, la ricetta era proprio promuovere, ma con un lavoro di costruzione della promozione, che non era soltanto una domanda, ma era invece il lavoro di una squadra che promuoveva attraverso le parole, la musica, la danza, la satira. Quindi era una Macedonia ben costruita intorno alla K. Senta, noi abbiamo fatto sentire, è la seconda trasmissione che dedichiamo a questo argomento, abbiamo fatto sentire l'intervista che gira su YouTube di Terry De Nicolò, escort barese, la quale ha appunto dichiarato che non io lo faccio e mi sta bene che volete da me, no, tutti devono fare questo, le belle, le racchi a casa, altrimenti non avete capito niente, perché appunto ha detto che Tarantini ha toccato l'apice, cioè voglio dire commerciava in carne umana, quindi ha toccato l'apice. Cosa pensa di questo? Le donne, almeno viste attraverso l'occhio della televisione, sono diventate, come dice lei, carne da macello e purtroppo la cosa grave è che una buona fetta di donne di questo paese hanno accettato questo ruolo, perché se c'è stata la rivoluzione portata dal femminismo e poi la parità dei sessi e poi tante altre battaglie che le donne in prima persona hanno vinto contro la faccia di tutti, c'è anche dire che un esercito di donne invece accetta questo tipo di, forse il loro malgrado, però lo fa anche con grande spavalderia. E quindi il problema è più serio di quello che sembra, perché non è soltanto il maschilismo imperante della televisione o di una certa politica, ma è anche l'atteggiamento, frustrante quanto sembra, però anche di certe donne che danno il fianco e non solo. Sì, ma c'è anche stata una ventina d'anni di pazientissima educazione a un'idea della prostituzione maschile, femminile, spirituale, corporale e tutto quanto. Senta, mi risponda seriamente però, Chiambretti, lei ha mai fatto marchette? Ma Marchette, se lei intende fare della promozione alle proprie cose... No, Marchette vuol dire prostituire il proprio modo di pensare, sostenere una cosa che non si pensa. Ecco, questo è il punto. Io in questo senso... No, questo non l'ho mai fatto. Oh, perché, è questo, mi consola. Questo, onestamente, ho sempre cercato di fare delle cose che mi piacessero e che fossero apprezzate. Poi ci si può riuscire o meno. Però, ecco, io se un giorno dovessi morire... vorrei che si ricordasse di me la coerenza. Io sono coerente, tutte le cose che ho fatto le ho fatte veramente di cotte e di crude e molto diverse tra di loro, quindi con una discreta incoerenza di fondo, avevano la coerenza di una libertà di pensiero che è rimasta tale. La guardiana del faro. Dopo avere letto le lettere che ci avete scritto sul tema marchette sì, marchette no, e dopo aver sentito anche Maria Latella e Piero Chiambretti, adesso io credo che ci sia un esorcismo più potente di tutti contro questa morale della bruttezza, della idolatria dei soldi a tutti i costi, ed è leggere qualche poesia. Questa è di Edward Eastling Cummings ed è Poiché prima il sentire. Poiché prima il sentire, chi fa attenzione alla sintassi delle cose non ti bacerà mai interamente. Essere interamente sciocco mentre la primavera è nel mondo, il mio sangue è prova. E i baci sono migliore destino della saggezza. Signora, io giuro per tutti i fiori, non piangete. Il gesto migliore del mio cervello va almeno del battito delle vostre palpebre che dice: noi fatti l'uno per l'altro. Quindi ridete, abbandonatevi fra le mie braccia, perché la vita non è un paragrafo e credo la morte non sia una parentesi. Questo invece è di García Lorca, all'orecchio d'una ragazza. Non volli dirti nulla. Vidi nei tuoi occhi due alberelli folli, di brezza, di riso e d'oro, oscillavano. Non volli dirti nulla. Sempre García Lorca, primo anniversario. La fanciulla mi va per la fronte. Ah, che antico sentimento. A che mi serve, domando, l'inchiostro, la carta e il verso? La tua carne mi sembra giglio rosso, giunco fresco, bruna di luna piena. Che vuoi dal mio desiderio? Poi ecco, invece di Terry De Nicolò, io ho un ideale che Marina Svetajeva in questa sua poesia autobiografica. Sono felice di vivere in modo semplice ed esemplare, come il sole, come il pendolo, come il calendario, d'essere un'anacoreta laica di snella figura, savissima, come qualsiasi creatura di Dio, di sapere: lo spirito è mio alleato, lo spirito è mia guida, d'entrare senza annunciarmi, come un raggio e come uno sguardo, di vivere così come scrivo, in modo esemplare e succinto, come Dio comanda e come gli amici non prescrivono. Questa è una poetessa australiana. Fra un po' cominceremo al faro un periodo australiano. Si chiama Lenore Candle e il titolo è Prima massacrarono gli angeli. Prima massacrarono gli angeli, legandogli con corde lesili gambe bianche e aprendogli la gola di seta con gelidi coltelli. Morirono, battendo le ali come polli, e il loro sangue immortale bagnò la terra in fiamme. Noi guardavamo dal sottosuolo, dalle lapidi, dalle cripte. I serafini e i cherubini non ci sono più, li hanno mangiati. Si sono puliti il sedere con le piume d'angelo. Chi ha fatto la spia agli angeli? Chi ha rubato il santo Graal e l'ha impegnato per un fiasco di vino? Chi ha scassato il corno d'oro di Gabriele? È stata una manovra di corridoio? Chi ha arrostito l'agnello di Dio? È stata una manovra ufficiale? Dove sono le nostre armi? Frughiamo le fondine vuote e dalle ginocchia ci spuntano carte di credito. Vomitiamo a segni annullati. Abbiamo venduto i nostri corpi e le nostre ore. Abbiamo liquidato la nostra fanciullezza in lavastoviglie tranquillanti. Hanno appeso i santi in camicia di forza e hanno reso innocui i profeti. Lobotomia per tutti, lobotomia per la massaia, lobotomia per l'uomo d'affari, lobotomia per gli asili d'infanzia. E hanno assassinato gli angeli. Chi è? Sono io. Ah, Robert, avanti, grazie. Grazie, mi ha portato la spesa. La può mettere qua, guardi. No, lì no, che ci sono i libri, aspetti. Ecco, qui per terra. Ah, ho sentito che parlavi di escort e prostitute, posso dire la mia? Ah, ma certamente, sono molto interessata alla tua opinione. No, io non voglio dare la mia opinione, vorrei parlarne in termini astrologici. Ma perché, tu ti interessi di astrologia? Certo, il negozio di frutta è solo una copertura, il mio vero interesse sono le stelle. Ma io, no, sai, non l'ho mai immaginato, perché ti ho sempre visto così preso dall'orto che pensavo che riempisse tutto il tuo mondo, invece no. No, io ho studiato anche a Oxford, come Harry Potter. Senti, allora questa è proprio un'anteprima mondiale, quindi ti annuncio solennemente. Ora sentiremo il parere astrologico sul nostro argomento di Robert de Saint-Loup, fruttivendolo a Capo Finisterre. Parlavamo di escort e prostitute, tra le due c'è una differenza enorme nelle motivazioni e negli intenti. La prostituta, come siamo abituati a pensarla, richiama subito gli archetipi di Venere e di Mercurio. Venere, che è l'energia attrattiva della seduzione femminile, e Mercurio, che richiama il concetto di scambio fra pari, né più né meno. Quindi è una transazione commerciale che si conclude con il pagamento del prezzo. Parlando di escort, invece, dobbiamo richiamare il più remoto, il più misterioso e il più piccolo dei pianeti del Sistema Solare, che è Plutone. Plutone è un pianeta astronomicamente insignificante, ormai anche declassato perché è troppo piccolo. Invece in astrologia ha un significato enorme, rappresenta quello che è nascosto sotto la superficie delle cose. È quella lava incandescente che ribolle celata sotto la apparente quiete del vulcano. E come tutte le altre energie astrologiche non è né buona e né cattiva, però ha la tendenza, come la lava, a tentare di risalire in superficie. E così come in un vulcano, tanto più la lava è compressa, tanto più forte e distruttiva può essere l'eruzione. Nella fase patologica, Plutone simboleggia le forze oscure del potere, dell'ossessione e della manipolazione. Queste sono le escort, per le quali il denaro è corollario del potere ed è un accessorio di importanza assolutamente secondaria. A differenza delle prostitute, su un piano motivazionale quello che per loro conta è l'affermazione di un potere. È il potere l'unità di misura, non il denaro. Mi viene in mente la battuta di un film, Short Bus, in cui un personaggio in crisi di identità dice: «Il periodo più felice della mia vita è stato quando mi prostituivo per vivere, perché sapevo sempre esattamente quale fosse il mio valore». Credo che qui ci sia una verità importante. Quando i valori diventano incerti, assume un'importanza il prezzo. Il prezzo diventa la misura del valore sia per chi vende il proprio corpo, sia per chi compra, che può dirsi: guarda cosa posso permettermi. La progressiva perdita di prestigio, di credibilità e di capacità di fornire un esempio, che dovrebbe essere proprio di un capo dello Stato, ne ha sgretolato completamente qualunque valore. Ed ecco puntuale il contrattacco di questo animale in agonia. Ve lo dimostro io il mio valore, che diventa prezzo. Compro ossessivamente, vi compro tutti e vi cospargo tutti di questo stesso denaro vergognoso in modo che facciate tutti la stessa fine. Via il valore e viva il prezzo. Dalla metà del 2009 abbiamo un interessante transito a livello planetario. Plutone, di cui abbiamo già parlato, è nel segno del Capricorno, che rappresenta proprio l'autorità del governo e delle istituzioni. E Saturno gli si è quadrato in Bilancia. Il quadrato è un allineamento dei pianeti che li porta a darsi fastidio reciprocamente. Ognuno tenta di bloccare e di paralizzare l'attività dell'altro. Il pianeta della responsabilità, Saturno, nel segno della giustizia, la Bilancia, tira una gomitata al malcostume sotterraneo rappresentato proprio da queste energie di Plutone, che è nel segno dell'autorità di governo. Plutone quadrato a Saturno, il potere quadrato ai giudici. Non ci ricorda qualcosa che abbiamo sentito tante e tante volte negli ultimi due anni? Dove stiamo giù? E Samor? Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.